Se tu lo vuoi, tu lo sarai una di noi. Wings, la tua mano nella mia, più forza ci darà, uno sguardo e vincerà.